Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ed eccoci qua, quindi sono le 22 passate da un minuto. Oggi, lo ripeto, è mercoledì 5 dicembre 2012 in compagnia di Agostino Spolaore, ma poi ancora con Maurizio Calzavara, e poi ancora abbiamo un ospite graditissimo, un caro amico di questa emittente che ogni tanto ci viene a trovare, ci sostiene e ci dà una mano anche con la sua conoscenza musicale, che poi insomma noi diciamo che è un pozzo, è un mostro di conoscenza. Fa da palo a te, Maurizio. Sì, ma qui è un palo più grande di me, decisamente più grande. Ed è Gianluca Merlin. Ciao Gianluca. Ciao Agostino, ciao Maurizio. E ben ciao, ritrovato Gianluca. Anche a te. E poi abbiamo questo live questa sera con questa piccola, insomma, un due quinti di questa band che si chiamano Evenoir, che ci sono venuti a trovare. Abbiamo Lisi Stefanoni. Ciao Lisi. Ciao a tutti. E abbiamo Alex Gervasi. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ben trovati anche voi qui a Blu Radio Vento. Prima di cominciare questa carrellata con la musica di questa band, vi ricordo i nostri dati tecnici. Allora, prima di tutto il nostro numero telefonico, quello in studio, è lo 049 875 6423. Mentre se volete mandare qualche sms, fare qualche domanda anche a questo gruppo questa sera, vi ricordo è il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, mentre per quanto riguarda lo streaming, semplicemente già ci state ascoltando, ovviamente, insomma, siamo in diretta 24 ore su 24, semplicemente dal nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it, lì c'è scritto ascolta la radio, ascoltando lì sentirete appunto Blu Radio Veneto 24 ore su 24. Credo di aver detto tutto, adesso io lascio spazio a Maurizio, Gianluca, insomma, e ai loro ospiti. Sì, hai detto tutto quanto, hai fatto l'ottima presentazione. Parliamo degli Evenoir, disco ufficiale, il primo. Avevate fatto un EP, si chiama I Will Stay, mi pare, vero? Era così, Alex? Esattamente, sì. E poi, giustamente, un disco ufficiale. E una, ho letto, Gianluca, una cosa interessante. Lisa Stefanoni, voce e flauti. Quando ho letto voce e flauti, mi ha dato un credit positivo, perché il flauto mi ricorda il folk. Cosa dici, Lisi, pardon? Certo, nei nostri pezzi c'è una grossa componente folk, siamo anche nella band tutti molto amanti comunque di atmosfere che ricordano tempi passati, ci piace partecipare anche alle rievocazioni medievali, e quindi il flauto, insomma, è uno strumento che si inserisce bene in una proposta come la nostra. È uno strumento che io suono da quando ho 6 anni, quindi insomma... ho cominciato proprio col flauto, la mia esperienza. Quindi il primo strumento è tutto tuo, sì, è stato il flauto, sì, praticamente. Sì, sì. Cosa dici, Gianluca? Loro parlano anche di folklore italiano, quello è importante, folklore, leggende italiane. E quella è una cosa interessante, è raro imbattersi nel folklore italiano. Sì, perché di solito i dischi che noi ascoltiamo sono tutti di folklore nordico. Esattamente. In questo caso è una proposta molto originale, cioè andare a riprendere le vecchie tradizioni del anche Nord Italia e rimetterle in un contesto folk symphonic metal. Certo, poi qualcuno ha scritto atmosfere evocative e lunari. Come mai lunari, Alex e Lisi, secondo voi? Questa caratterizzazione, nel senso positivo del termine, chiaramente. Abbiamo comunque anche una componente, diciamo, atmosferica. Non è soltanto comunque folk, ma c'è anche una buona parte di symphonic, quindi dei pianoforti, dei violini, dei tastieri, sì, delle violini, dei violini. Quindi ecco, c'è proprio anche una componente un po' sognante, quindi diciamo un po' notturna anche nell'album. Io potrei citare con Gianluca un po' prog in alcuni momenti. Anche, sì, sei sì. Sei d'accordo, c'è anche... Alex, sei d'accordo? C'è qualche riferimento, beh, il prog è una bella cosa. Adesso c'è stato un ritorno al prog, il prog era scoppiato a fine anni 60, inizio anni 70, e poi c'è un grande ritorno, e quello fa parte della musica, perché no? È una cosa molto importante, molto significativa. E il folk, il rock, il gothic metal, tanti generi, ma importante è la vostra musica, al di là dei generi, delle variazioni, delle diverse sfaccettature. Cosa pensi, Gianluca? Ma sicuramente, si parlava di tradizioni popolari e culturali, no? Parlavi appunto di prog, e infatti, a proposito di prog italiano, molte formazioni tipo il Banco del Mutuo Soccorso hanno ripreso vecchie cose antiche. Sono ritornate alla grande. Anche stormelli del 500-600, certo, riprendendole, certo, e riportandole nell'ambito della musica progressiva. Dimmi, Lisi. Guarda, io se posso anche dire una cosa. Ma certo, puoi dire tutte le cose che vuoi fino ai 24. Faccio un esempio di una grandissima band alla quale io sono legata, ma anche noi Evenoir in genere, gli Opeth, ad esempio, con l'ultimo album. Sono tornati proprio a sonorità prog, quasi anni 70, e insomma è stato proprio un passo all'indietro, diciamo, rispetto ai lavori precedenti più legati comunque al Deft o comunque molto più pesanti, quindi c'è proprio anche un po' un ritorno del prog. Certo, ma noi nella nostra band ci ispiriamo tantissimo. Gentle Giant è detto un gruppo di straordinaria attualità, molto importanti. Ricordiamo un episodio che Gianluca sicuramente sa: quando sono andati in tournée con i Jethro Tull, Ian Anderson li ha scacciati via perché erano troppo bravi per loro. Erano troppo bravi, è la verità, non è mica una, non era una leggenda metropolitana. Erano troppo bravi, non sono diventati il gruppo di supporto, erano il gruppo più importante rispetto ai Jethro Tull. E Ian Anderson li ha mandati via. È successo anche con i Boston, esattamente quando ebbero un grande successo. Il povero Bob Seger dovette chiedere alla casa discografica: per favore, mandateli in tour da soli perché il pubblico mi richiede Boston invece di Bob Seger. È successo anche con i Metallica e i Saxon. Ecco, è vero, anche quello. Dei Metallica. Vedi, sono cose che capitano quando uno è bravo, comincia ad essere molto bravo, le cose cambiano. Cosa facciamo adesso? Facciamo una nostra tradizione, apriamo la finestra. Abbiamo scelto il primo brano da far sentire da disco. Ma la senti cosa ti avevo preparato, Maurizio? La traccia numero 6, mi pare, Agostino. Ma senti, non volevi gente già? Ma perché, sì, chiaramente, perché è giusto, si parte sempre dal flauto di Ian Anderson, l'abbiamo visto a Padova qualche giorno fa, e ha fatto Rock Comedy Breath alla fine, dopo Figures & Bleakin, parte prima e parte seconda. Ma non, non c'è solo il flauto di Ian Anderson, anche se bisogna dire una cosa, mi puoi dire Gianluca anche te sostenere, se non ci fosse stato Ian Anderson non sarebbe stato importante il flauto nella musica rock. C'è questo aneddoto, l'ha sdoganato al 100%. Sì, c'è questo aneddoto straordinario in cui Ian Anderson inizialmente era chitarrista, cioè comunque aveva iniziato la chitarra, poi ha sentito Eric Clapton, il famoso Blues Breaker with John Mayall ed Eric Clapton, ha detto: beh, se c'è questo chitarrista qua in giro non io non sarò mai numero uno, io non voglio essere numero uno al mio strumento, e ha scelto il flauto e è diventato numero uno. Hai detto una cosa giustissima, come giustamente abbiamo prima riproposto, il flauto è stato sdoganato, è intanto un flauto di tutti praticamente, lo conoscevano tutti. Per Figures & Bleakin, un album formidabile, Aqualung, un album formidabile, il flauto è questo. Adesso sentiamo allora un primo pezzo della band, lo vuoi presentare, Alex? Il primo pezzo della band abbiamo scelto da disco è la traccia numero 6, è Girl by the Lake. Lo presentiamo se un momento o lo sentiamo? Dire un paio di anche di parole? Di, beh, questo, certamente, assolutamente. Perché prima tu giustamente hai parlato del fatto che riprendiamo le leggende comunque del folklore italiano. Questo pezzo si basa proprio su una leggenda del Lago d'Iseo legata ad una storia tragica di un amore che è stato ostacolato, si è concluso poi con il suicidio dei due amanti, e da quale si è originata una famosa tempesta, la Sarneghera, che si abbatte estate o che si abbatte in estate sul Lago d'Iseo partendo da Sarnico, e ne abbiamo proprio voluto scrivere un testo in onore di questa leggenda, insomma. Perfetto, ok. Girl by the Lake. We'll be right back. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Dunque, durava 7 minuti questo pezzo e, come avete notato, cari ascoltatori, non è stato tagliato niente, perché qui non si taglia nulla, perché doveva durare 7 minuti e deve durare 7 minuti, perché la leggenda, la storia, si dipana in 7 minuti. Una storia un po' complessa anche dal punto di vista vocale, vero Lisi? Sì. Vai molto forte, poi rallenti, ritorni molto forte, una specie di fisarmonica. Beh, guarda, come in ogni canzone, il mio stile è un po' uno stile di generi che si fondono insieme, generi vocali intendo. Quindi, insomma, dal canto moderno al canto folk, al canto anche lirico. Ho fatto anche studi comunque di canto lirico. Tu hai studiato anche canto, credo. Sì, sì, sì, sì, ho fatto anni di studio di canto moderno e anche anni di studio di canto lirico. Quindi cerco un po' di mettere insieme vari stili vocali. Mi piace molto questa unione. E non è semplice, però, secondo me, produrre tanti stili vocali in 7 minuti così di pathos, di tensione emotiva, nel senso positivo del termine. Cosa dici, Gianluca? È la bellezza del loro disco. È la bellezza del loro disco, effettivamente. È la novità del loro disco, l'originalità del loro disco. Cosa dici, Alex? Beh, anche poi la parte musicale è un insieme di vari stili. Quindi non solo la parte vocale. Tutto l'insieme, sia la parte strumentale che la parte vocale, è un insieme di vari stili. E fare un pezzo simile, quanto vi è costato di fatica mentale, non solo mentale? Tanto. Tanti litigi soprattutto. Ecco, quello è importante, tanti litigi. Ma litigi musicali, chiaramente. Beh, chiaro, per sì. Trovare la linea giusta. È divertente poi vedere le persone che litigano per un bemolle. Un riff che non dava, un bemolle che non va. Sì, sì, sì. Ma deve essere una cosa molto creativa, però, in ogni caso, questo litigare nel senso positivo, questo creare un po' alla volta il pezzo. Sì, poi diciamo che poi dopo esce anche il carattere del... Fortunatamente noi siamo un gruppo di persone abbastanza forti come carattere, quindi andiamo d'accordo anche per questo. E il carattere della vocalist, si è imposto il carattere della vocalist, si impone sul pezzo? In alcune parti esce, sì, il carattere della vocalist. Certo, quello è impossibile, vero Gianluca? La vocalist deve cantare il pezzo, deve colorare il pezzo. Come sì, fa? È front woman in questo caso. Esattamente, quindi... assolutamente front woman, proprio... Poi essendo l'unica donna in un gruppo di uomini, ogni tanto le diciamo sì sì va bene, poi facciamo ancora come... Ho capito, sì. la secondate. Non è vero al 100%, non è vero. C'è sempre una bella discussione. Quindi il pezzo, questo è stato costruito in una certa maniera. Un sacco di riferimenti musicali, che un sacco di giri concentrici praticamente. Esatto, un sacco di giri concentrici. È una bella cosa, secondo me. È un'ispirazione continua verso sempre nuove cose. Noi non vogliamo conformarci con la massa, diciamo, e quindi non ascoltiamo tantissimo quello che esce in questo periodo. Sempre per la nostra strada facciamo quello che ci pare, insomma. Gianluca, come si può definire un disco come gli Heaven Noir? Come lo possiamo caratterizzare dal punto di vista della linea che tu conosci meglio di me? Beh, epic metal o comunque symphonic metal. Ovviamente ci sono tantissime influenze, qui appunto il folk e la tradizione. Ma il folk ha dato un qualcosa di più, un quid superiore, cosa dici? Beh, è un filone che comunque nell'ambito del metal è da tantissimi anni, già all'estero, vedi i tedeschi, adesso anche gli scandinavi, stanno esplorando questa opportunità. Se poi vogliamo tornare ancora più indietro, già le Zeppelin con i Mirror Song avevano tirato fuori i vichinghi. È un genere che sta andando moltissimo nell'ambito del metal, è la grande novità di un genere musicale che da solo va avanti evolvendosi in un'era in cui si dice sempre che non ci sono novità nell'ambito musicale pop rock, no? Giusto. Invece il metal sta continuando ad evolversi e in questo caso l'epico, il symphonic sta dando nuovi spunti. Mi diceva Alex però che certi metallari, certi vicini al metal, hanno un po' storto il naso. Cosa dici, Alex? Beh, il nostro è un genere che discosta un pochino dal metal classico. È un metal particolare, è come il jazz per il blues, più o meno. Ho capito. Quindi... Marco, ha parlato bene Alex? Pronto, ciao! Ciao Marco Binotto. Nostro bassista, ciao, mi pare. Sì, sono il bassista. Sì, ha parlato bene, infatti volevo anch'io ribadire un po' i concetti che di cui ha parlato Alex prima. Per quanto riguarda, sì, il nostro genere infatti è poco identificabile, ma non ci interessa, nel senso, per anche dare un nome, un'etichetta, oppure dare comunque, come si dice, un'identità a un genere potrebbe anche essere un po' limitante, quindi noi non ci poniamo nessun paletto, nessun limite di sorta. Quello che esce dalla sala prove esce, e poi lo mettiamo su disco. Abbiamo visto che piace sia abbastanza, e come diceva Alex, qualche true metal, come si dice, storge il naso, ma tanto lo storgo il naso per tutto quello che non è true metal. Quindi, esattamente, che non è Iron Maiden, diciamo. Ma sì, vabbè, ma poi dopo ognuno si può fare, pensare quello che vuole. Poi comunque la critica ci sta, hanno criticato, ma sì, anche ma va benissimo. I Beatles e Rolling Stones all'inizio. No, ma anzi, io penso che le critiche diano come più verità a quelle che sono i complimenti che ci fanno, perché se no sono tutti complimenti, ma perché sono tutti complimenti? Dopo ci annoiamo. Dopo qualche critica va bene, costruttivo o no, però le accettiamo col sorriso, insomma. Alex mette una cosa molto bella su di te, Marco, sento positivo, sempre positivo, che tu costruisci sempre certe cose, poi in studio certe cose vengono allargate, vengono costruite meglio dagli altri, cosa dici, Marco? Sì, diciamo che... Hai un input, crei certi input. Io ho l'input e poi dopo quello che succede, succede. C'è chi ci mette una virgola, chi ci mette il punto di domanda, chi ci mette... Lisi sta ridendo in questo momento. Tu sì, non la vedi, perché... ma sta ridendo, vuol dire che approva assolutamente. C'è chi ci mette il bemolle, c'è chi ci mette il diesis. No, perché... ma anche perché è bello l'accento cremonese dal telefono. Ah, beh. Ah, sì? È per quello. Anche perché a volte ci scanniamo io e lei, no? Ma... Sì, è vero. Però c'è sempre in amicizia. Non è ancora sgorgato il sangue, però... Una nota in più, una nota in meno, può essere un sangue nel senso così... No, guarda che è vero, guarda. Dimmi. Che su, a volte su ci perdiamo delle ore proprio su dei dettagli, ma ci sono gli altri che... No, io mi diverto tantissimo. Di noi, sì. È vero. Sì. Beh, ma davvero su delle cose che se le senti ti metti a ridere anche te, però magari... Sei dettaglio rende importante. Ma Marco, hai detto una cosa giusta, cioè se tu vuoi cercare il dettaglio, vuol dire che il pezzo deve essere costruito in una certa maniera. Perfetto. Perché ora siamo in piena fase compositiva, quindi è proprio il periodo esatto in cui ci siamo, cioè se loro due si stanno scannando per il diesis o per il bemolle. Visto che ci sei, Alex, citiamo anche gli altri componenti oltre a Marco. Salutiamo Daniele Foroni e Toshiro Brunelli, che spero ci ascoltino. Il batterista e il secondo chitarrista. Secondo chitarrista. Toshiro mi sa che è a Bruxelles, quindi... Via internet non si sa mai. Infatti, dai, c'è anche la possibilità, è vero. Marco, vuoi che facciamo una cosa? Dimmi tutto. Li facciamo suonare dal vivo adesso in acustico. Volentieri. Tu li senti, poi ci facciamo. Ci ritorniamo. E diamo un voto. Sì, esatto. Ok, va benissimo. Voi quando siete pronti me lo dite. Che cosa ci fate ascoltare innanzitutto? Facciamo Days of the Blackbird. Ok. Che è il pezzo uscito come singolo. E riguarda la leggenda dei giorni della merla, che insomma si riferisce agli ultimi 3 giorni dell'anno di gennaio, scusa, e giorni freddissimi tra parentesi, di solito sì, sono infatti i 3 giorni più freddi, esatto. E insomma questo pezzo si chiama Days of the Blackbird. Thank you. Bellissima, direi molto bella, molto evocativa, qua stringata come si conviene flauto e chitarra, però la voce, la leggenda. Blackbird era un famoso pezzo dei Beatles fatto in una maniera sublimale da Paul McCartney, e te questo Days of Blackbird l'hai fatto in maniera un po' particolare, il flauto, voce e chitarra, ha un certo fascino, cosa dici Gianluca? Assolutamente. Molto fascino, decisamente. Conturbante nel senso positivo del termine, musicalmente. Manco, parlando. Che voto gli diamo? Gli diamo un bel voto, dai. Ecco, vai Marco, spara, dai. Gli diamo 7,5. Sette, dai, e mezzo. È stato un po' parco, però, stato. Io pensavo un pochettino di più, Marco, sei stato un po' parco. Ma poi si smontano la testa dopo, una notte. No, ma è giusto, va? Giusto così. No, ma è una bella dimensione dal vivo, Marco, una cosa molto bella. In radio non è semplice, non è facile. No, ci credo, immagino, no, ma loro so che sono bravi. E tu no? Quindi... No, sì. No, è che siamo già abituati noi in radio, lui non è mai venuto. Quindi... Ah, ecco. Per quello. Sì, prossima volta, dai. Quella che ti stanno ascoltando, la promessa è un debito, va mantenuto, va pagato. Infatti, è vero. Ci facciamo un nodo al fazzoletto. Ecco. Prossimo disco ce lo venite a presentare qui, tutti quanti. Di sicuro. Bene. Promesso. Così. Senti, che difficoltà c'è stare all'interno di questa band, Marco? Ma grosse difficoltà non ce ne sono, ti dirò. Secondo me stiamo anche abbastanza bene. Dopo i primi momenti in cui, come in tutte le cose, bisogna smussare un po' gli angoli del carattere, no? Vengo un po' incontro io, vieni un po' incontro te, alla fine secondo me siamo una buona squadra. Sì, a volte ci sono delle incomprensioni normali, rutinarie, ma tutto sommato mi ritengo fortunato a lavorare con dei ragazzi come gli Venoir, sono soddisfatto, cioè, insomma abbiamo costruito insieme un bel gruppo negli anni, proprio come ti dicevo prima, cercando di venirsi sempre incontro, perché non è facile quella convivenza tra tante teste. Però c'è la democrazia e quindi si supera tutte le... Sì, penso che cercando di venirsi incontro democraticamente, come dici tu, si superano le difficoltà. Poi dopo, bene o male, io penso che le difficoltà più grandi siano dovute proprio dal lavoro, perché noi tutti lavoriamo e magari uno fa i turni, io faccio i turni, l'altro non può avere le ferie, insomma, quello lì secondo me potrebbe essere una difficoltà non dovuta direttamente da noi, ma comunque dall'esigenza di dover lavorare per vivere. Poi più si va avanti con il progetto, più diventa difficile, è come se fosse un secondo lavoro praticamente. Chi è che scrive le canzoni principalmente? I testi, sì. Lei, tutto lei. Sì, i testi li scrivo io, vado sempre alla ricerca di nuove leggende. Mi piace anche quando viaggio, non so, quando anche faccio dei giri, non so, sulle Dolomiti o nei laghi italiani, andare poi alla ricerca delle leggende del luogo e poi ripescarle per metterle in musica. Anche se comunque nell'album non sono tutte leggende, ma ci sono anche ad esempio delle ispirazioni letterarie come la Gerusalemme liberata, un episodio biblico che è l'incontro tra la regina di Saba e il re Salomone, e ecco, un personaggio come ad esempio il conte di Cagliostro, quindi non proprio solo leggende ma anche fatti storici presi sempre comunque dalla cultura italiana. Non è facile quello che fai, insomma, perché di solito uno scrive le canzoni in base a qualcosa che gli capita o che vede, insomma, ma cercare proprio una leggenda e poi farci sopra una canzone non è, secondo me, molto facile. Sì, non è facilissimo, perché comunque bisogna cercare di raccontarla in breve, tutta concentrata, certo. Però è una cosa che mi piace molto, studio anche comunque, sono all'università, mi sto laureando in storia dell'arte, quindi mi piace comunque ogni sfaccettatura della cultura e soprattutto andare a ripescare queste storie che sarebbero anche dimenticate, insomma. Anche perché a scrivere canzoni d'amore lo fanno tutti, quindi. Sì, sì, beh, non ci siamo poi noi non abbiamo nessuno, quindi. No, tutti sì. sì. E invece la musica? Chi la scrive? La musica principalmente parte da Marco Binotto, poi abbiamo. Insieme la arrangiamo in sala prove tutti, ecco. Porta in sala prove delle idee e poi dopo io, il batterista e l'altro chitarrista, gliele frantumiamo tutte. Bene. Se le cambiate completamente. Benissimo. però sì, la maggior parte delle porte io quello arrangiamo insieme. Io vorrei sottolineare una cosa, che noi componiamo old style, cioè molte band compongono con programmi al computer, magari mettendo giù subito l'intera canzone con questi programmi. Noi invece ci troviamo a casa di Marco, mettiamo giù le prime idee e poi in sala prove tutti insieme creiamo un pezzo. Registrate su cassetta, attenzione. Come si usava una volta. Sì, adesso fortunatamente non ci sono più. Abbiamo gli iPhone, quindi, però fino a 2 anni fa usavamo proprio le cassette. È vero? Usavamo proprio le cassette. Le cassette, cioè, bello. Cosa old style. Ma c'è un ritorno, vero Giampaolo, al discorso del vintage, un ritorno a registrare in una certa maniera. Negli studi di registrazione, sì. Sì, esattamente. Con le vecchie bobine. È un po' costoso, però la qualità è decisamente migliore, c'è un suono diverso, si respira meglio, Marco. C'è un calore diverso. Certo, un calore diverso, c'è poco da fare. C'è una fatica diversa anche nel comporre le canzoni. Sì. Noi dobbiamo dire che in questo CD è stato molto bello andare a farlo a Monaco di Baviera, perché abbiamo trovato persone molto competenti e abbiamo lavorato veramente bene con loro. E quindi, c'è un produttore anche importante. Mario Locher. Quindi è l'etichetta nuova italiana. Allora, l'etichetta è la Scarlet Records di Milano. Di Milano. Sì. Ha una certa età, come tanti anni, poi esattamente. Ha sotto tantissimi gruppi famosi, insomma. Mentre invece Mario Lockhart ha collaborato con tantissime band top, come i Megadeth, lui poi era il bassista dei Visions of Atlantis, esatto. Che è una band sinfonica molto famosa. Emergency Gate, Grave Worm. E come ha deciso Camelot di produrre voi? Abbia sentito via. Ha sentito qualcosa che secondo lui dovevate sviluppare? Alcuni nostri lavori del primo EP. A lui è piaciuto molto il nostro modo di fare le cose e ci ha proposto questa collaborazione. È stata un'ottima collaborazione, sì, decisamente, sì. Vi ha arricchito decisamente, secondo lui me. E soprattutto Jan è il suo collega, diciamo, e si è occupato poi di tutta la parte del mixaggio, della masterizzazione. Jan poi è il tastierista dei Dream Sound, che è una grande band. No, scusa, come si chiamano? Ho sbagliato. non ti ricordi Dream Sound è lo studio. il Dream Sound è lo studio. Lo studio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Mi ricordo. Marco, ti ricordi? No, cioè, non mi ricordo neanche io. Ma è Elisa, porco cane. Leggeremo nelle note del libretto, dai. Speriamo che non ci ascolti. In ogni caso, sì. Cosa dici Gianluca? Discorso anche del suono, si sente bene questo disco? Assolutamente. Molto, molto si sente bene. Molto bene, quello è il problema. Problema positivo, si sente proprio bene. Anche... E piace, quello è il discorso. Esatto, cioè, piace, si capisci sente... che non è la solita band, non sono i soliti suoni. E infatti la prima volta che ho sentito appunto Ministry of Dolomites sono saltato la sedia e ho detto caspita, ma questi sono bravi, cioè sono fantastici. È chiaro, lo capisci, ma lo senti subito. Lo senti immediatamente. L'impatto, non è che devi stare lì a pensarci. Certo. Proprio è un qualcosa, dici, questi qua veramente ci mettono creatività, fatica e voglia di creare qualcosa, ecco, di diverso. Ha detto una cosa giusta già, Gianluca. Solito. Fatica, perché ci vuole, bisogna faticare per fare un disco, secondo me. No? Sì, cosa sì, dici, sì, Marco? Sì. No, è una faticaccia. Però se hai la passione superi qualsiasi ostacolo. Però è stato veramente un parto questo disco. Ma infatti volevo riprendere quello che stavi dicendo per quanto riguarda il suono, come sì. suona il disco. E noi siamo stati molto contenti dello studio di Monaco, perché diciamo che il fonico di uno studio non deve solo mettere dei preset che suonino bene e facciano suonare un disco, ma secondo me deve riuscire a interpretare, a capire quello che vuole dire l'artista e come lo vuole dire. Perché tanti studi di registrazione hanno dei preset da settati, il disco suona benissimo, ma è un po' anonimo e non è valorizzato nei punti in cui deve essere valorizzato per riuscire a distinguersi. E invece lì a Monaco, visto che con un po' più di tempo siamo riusciti a trovare proprio quell'ambiente che andava bene e faceva girare meglio le nostre canzoni. Giusto, hai fatto una giusta annotazione, perché ci vuole anche pathos, trasporto, perché sì, tutti, sì. Perché anche se abbiamo un fonico molto bravo ma non ha collegamento con gli artisti, giustamente come sì, ha detto infatti. Alex, il disco rimane freddo e si sente, la gente lo ascolta freddo, sì, sì. In questo caso sì. No, è un disco caldo, vero Gianluca? Poi comunque sotto c'era molta birra, quindi. Ah, c'era molta birra, beh, questo è chiaro, che allora cresce notevolmente il disco. Bene per mica peraltro eravate a Monaco, quindi esatto. Infatti scusa. Ok. Voi che ci ascoltiamo adesso ancora un altro pezzo dal vivo, ci volete fare qualcosa dal vivo voi o volete fare qualcosa dal disco? Facciamo come volete voi. Facciamo un pezzo dal disco. Va dal bene. Disco. Così vi riposate. Sì, la traccia, vediamo che abbiamo scelto la traccia numero 4, mi pare, sì. Tu resti lì, Marco, ci fai sempre compagnia? Io resto qui, sì, resto che qui hai, ancora un pochino, va bene. Hai tre quarti d'ora di strada per andare a casa, hai detto dal lavoro, sì, quindi sì, va bene, ci sentiamo dopo la canzone. Certo. Sì, ok. Allora, okay. Il brano si chiama Forever Gun, c'è qualcosa sì. da dire? È legato alla morte della moglie del re Manfredi di Sicilia, questo pezzo. Ho voluto descrivere un po' i suoi ultimi attimi imprigionati sulla torre del castello. E ecco, niente, come tanti episodi medievali, imprigionata sempre sulla torre del castello, sì. È già successo più di una volta, tipo la regina di Spagna, Caterina la Pazza, quindi anche quella era una delle dei tanti episodi. Sì, è un pezzo triste questo. È un pezzo triste, sì. Okay. L'ascoltiamo. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, Marco, sei sempre al telefono, vero? Sono qua. Come lo giudici? Dai un giudizio a questo pezzo da disco stavolta, non dal vivo. Questo qua è... Allora, diciamo che questo qua forse è il pezzo più forte che abbiamo nel senso di impatto. Drammatico al 100% visto la storia. Sì, la storia è molto drammatica, però diciamo che c'ha un inizio abbastanza con un certo trasporto musicale. C'è questa potenza rispetto agli altri che gli altri pezzi non hanno, che comunque ti tiene, secondo me, più attaccato alla sedia. Ecco, in questo momento noi siamo attaccati alla sedia, anche se dovremmo muoverci e alzarci, perché quello dovrebbe essere il discorso. Sì, comunque sì, quello forse un po' più tecnico dal punto di vista esecutivo e anche armonico di tutto il disco. Infatti noi apriamo i concerti con questo pezzo perché comunque vedi caso quello che ha più spinta e più impatto proprio. E questo pezzo, praticamente la nostra vocalist dà tutte le sue doti, anche liriche, assolutamente liriche. Cosa dici, Lisa? Si parlava con te. Marco sta sempre ascoltando. Sì, sì, questo pezzo ci sono molte parti, molti acuti lirici, come dicevo prima. Comunque il canto lirico è uno degli stili, il tuo background. Sì, e poi uno degli stili che utilizzo, e sì, questo brano soprattutto emerge. Marco ha parlato di pezzo che entra sullo stomaco, bel pugno allo stomaco. Cosa dici, da Luca? È così, sicuramente. D'impatto assoluto. Al di là che aprono i concerti, proprio d'impatto. Volutamente, in scaletta, messo il numero, mi pare, il numero 4. Quindi, il numero 4 è circa metà del disco. Insomma, anche quello ha un certo senso. No, ma c'è Marco che stava correndo, penso. Stava scappando in strada, secondo me. No, ti rispondo. Sì, diciamo che... L'abbiamo messo perché l'ordine è importante. Perché l'ordine è importante, una scaletta, c'è poco da fare, non è così messa a caso, le scalette non sono mai messe a caso. No, infatti noi lo usiamo live perché live apre bene, no? Però sul disco apriva bene, diciamo, un pezzo passepartout tipo Days of the Blackbird, perché è corto e racchiude bene o male tutto quello che ci sarà poi nel disco. È un po' di fiatone, mi pare, adesso in questo momento. Che... leggermente un po' di fiatone. È ormai l'età, si sente. È un po' l'età. Ti dico... No, sì, ok, sono entrato in casa, ma adesso il fiatone è finito. Ok, perfetto. Ci sono. È tutto reality. Live, è tutto live anche reality questo. Reality radio. Esatto, tutto live, assolutamente. È il grande fratello adesso... della radio. Sì. No, ho appena spiegato a mia moglie che sono in diretta... allora salutiamo anche Erika. Ciao Erika, se ci sta ascoltando la salutiamo. Vi saluta. Okay. E niente, e stavo parlando appunto dell'ordine dei Forever Gone, che qua, in mezzo al disco è come se desse un rilancio a tutto quello che è l'ascolto successivo. Bello, hai detto una cosa bella, Marco, un rilancio, cosa dici, Gianluca? Un rilancio a tutto l'ascolto successivo, è una bella interpretazione, una bella scala, secondo me. Sì, una sorta di introduzione, comunque uno slancio verso uno slancio. Il resto della scaletta di brani. Esattamente, uno slancio vero e proprio, perché il disco deve essere anche uno slancio, cosa dici? Sì. Deve sapere emozionale. Dal vivo, come lo fate sto pezzo? Scatenati o no? Sì. Sì, beh, poi apriamo proprio i concerti con questo brano. Quindi bisogna svegliare il pubblico. Bisogna dare carica subito, insomma. Esattamente, un po' di luci, bah, via. È come si usa. Sì. Una volta si usa. Bene, Marco, sei sempre all'ascolto, mi pare. Sì. Come tu fossi qua. Arrivato a casa. Assolutamente stasera. Stasera sono lì con voi praticamente. Ecco, non accendere la tele, allora. Metti le pantofole. No. Sì, però poi metto anche il pigiama. Ok. Beh, già che ti abbiamo al telefono, Marco, ne approfittiamo, sì, per anticipare una domanda che noi facciamo spesso, anzi sempre. Maurizio, che dici? La facciamo, sì, adesso? Sì, sono le 22:51. Facciamo una stavolta, di solito cominciamo alle 23, siccome c'è Marco al microfono, 22:51. Glielo facciamo subito, sì, a lui. Esatto. Facciamo prima a lui e poi agli altri. Ecco, sì, Marco, sì, se ti capitasse di andare in un'isola deserta, che, sì, che dischi ti porteresti? Te ne concediamo? Oddio, questa qua me lo faccio con i miei amici davanti a qualche... Io sono ancora in grigio adesso. Tre, allora, solo, per te tre solo tre, per gli altri in studio 5. Ecco. Aiuto. Allora, io porterei un disco dei Beatles, quello che volete voi, uno a caso, van bene tutti. Poi, su due piedi mi porterei Foxtrot dei Genesis. Un momento, adesso parliamo. Gianluca ha scelto Foxtrot di Genesis. È un capolavoro. È un capolavoro. Sì, pienamente d'accordo. Come mai hai scelto Foxtrot? Non sai l'Ingra, Blythe Pound o Trespass o quello post Peter Gabriel? Perché non lo so, forse oggi, magari domani sceglievo Celine England. Chiaro. Non è, nel senso, non ho una preferenza. Perché io, a me piace tantissimo Celine England, Foxtrot e Nursery Crime dei Genesis. I tre, diciamo. Le tre perle. Dopo, quando è andato via. Ma sono ancora i Genesis, secondo te, quando è andato via Peter Gabriel? Sì, io e Gianluca non siamo perfettamente d'accordo. No, dai, no, i primi due dischi. I primi due dischi non sono male. Sì, Colin si è salvato nei primi due, poi è andato poi sono alla altri deriva. Genesis. Sì, non sono altri. Sono i Genesis di Phil Collins. Esatto. Sì, secondo Genesis me ne hanno fatti un altro, esatto, paio degni di. Di nota, nome, di nota. Poi di chiaramente i milioni di copie si hanno fatto con Abacab, che è il peggiore disco di Genesis, sì, in assoluto. Sì, beh, sì, fra, sì, l'altro, sì, poi sì. Phil Collins è stato eletto tra i 10 migliori batteristi al mondo. Vabbè, quello niente da dire. Quando suonavo con i Brand X, tanto di cappello. Anche con i Genesis. Anche i Genesis, bravissimo. Phil Collins poi ha fatto dei pezzi da solista che sono bellissimi. Cioè, insomma, stiamo parlando di un artista che secondo me è uno dei migliori artisti esistenti, nel senso, vabbè, poi dopo un punto di vista. Comunque, siamo arrivati al secondo, il terzo? Allora, il terzo mi porterei... È dura, Siamo ancora negli anni 70, Octopus dei Gentle Giant. Ah, bene, beh, adesso parliamo un lungo discorso sugli Gentle Giant, perché abbiamo già parlato precedentemente, però è la bellezza creativa di Gentle Giant, sapere coniugare il jazz e il rock con tutti gli stilemi un po' strani, con tutti i chiaroscuri loro. Ma guarda, io quando ascolto Gentle Giant ascolto tutto quello che è stato fatto finora, nel senso, sono proprio, hanno una ricchezza, come dici te, di composizione, di qualità, di armonia, che praticamente racchiude quasi tutti gli stili, è incredibile. E allora, per quello che mi piacciono, piacciono molto. Secondo me è uscito un gruppo ultimamente, si chiamano i Leprous, sono un gruppo norvegese, secondo me li richiamano molto con suoni moderni, ma davvero secondo me sono degni di nota questi ragazzi qua norvegesi. Certo. E comunque, vabbè, proprio Gentle Giant porta, perché proprio sono un insieme totale di tantissime cose, prog, rock, pazzia, jazz, blues. Pazzia, esattamente, anche sì, qui. Sì. Secondo te, Gianluca, i Gentle Giant, l'ombra benevola di Gentle Giant, corrono negli FN War, secondo te? Potrebbe essere nei cambi di tempo. Ecco, nei cambi di tempo. Esatto, che sono la cosa per la prerogativa dei Gentle Giants. È perfettamente, nei cambi di tempo, esattamente. I Evanoir magari non hanno i fiati, però comunque qualcosa magari nelle tastiere, ma sicuramente gli sbalzi di tempo, comunque i tempi dispari, che sono prerogativa di questa formazione. È il divertimento del nostro batterista, soprattutto. Ah, quello. Che stasera non c'è, però lo salutiamo, chiaramente. Non c'è, no, puro. Bene, Marco, hai fatto una disamina perfetta dei tuoi gusti musicali. C'è poco da sì, e poi manca la parte di Sin Chains o dai Grunge. Ma erano solo tre. Quindi. Erano solo tre, Marco. Se vuoi continuare, non ci sono problemi. Ah, bene, allora dai. Altri due te le concediamo. Dai, altri dai due. Facciamo... Cosa dice Agostino? Gli concediamo altri due. Certo. Beh, poi mi ha nominato i Genesis. Quindi, appunto, dobbiamo concedere. Genesis, prima maniera. Io ci avrei messo anche From Genesis to Revelation. È quella primissima, va bene, hai ragione. Poi, è vero. Io porterei Music Bank degli Alice in Chains, che è la loro cosa. Dai, sul pesante creativo, sì, però. Un po' più psichedelico. Psichedelico, e poi l'ultimo. L'ultimo faccio fatica, però Di sicuro facciamo i Depeche Mode, qualcosina di Depeche Mode. E poi dopo magari, sai, domani me lo richiedi, cambio totalmente parte Genesis e Genesis Intense, però... ma sull'isola non puoi cambiare comunque. Su? Quando sei sull'isola dopo non puoi più cambiare. Ah beh, è vero, vabbè, niente, dai. E comunque sì, i miei gusti gravitano intorno a questi gruppi. A questi gruppi, chiaramente. Sì, sì, sì, sì. Bene, benissimo. Allora adesso chi tocca adesso? Facciamo Alex, o Alex. Io prima, così se no mi ruba. No. Vabbè. Vai Alex. Ma allora io porterei di sicuro Jimi Hendrix. Ah, bello. Cosa ne pensi? Adesso faccio una domanda a Gianluca e poi a Alex e a Lisi della riproposta che hanno fatto il Quinto Rigo di Hendrix Experience. Difficile riproporre, no, non li conosci Quinto Rigo. Di proporre Hendrix Experience da parte di Quinto Rigo, eccolo qua. A me sono sempre piaciuti Quinto Rigo, però adesso so che hanno cambiato. Hanno fatto una riproposta di Hendrix Experience, il primo Hendrix. Secondo me è una riproposta coraggiosa. Beh, sì, no, beh, loro, io li conosco da quando hanno fatto i pezzi dei Metallica. Quindi ho imparato. Ma quelli forse sono gli Apocalyptica. No, ma anche Quinto Rigo hanno fatto qualcosa. Ah, no. Allora, e... tempi di John DeLeo? Non ne ho idea. Perché sai che prima hanno avuto John DeLeo, poi hanno cambiato con una cantante femminile, Luisa Cottifogli. Okay, sì. Io non so i nomi delle... comunque. Vabbè, in ogni caso. E, no, beh, è una cosa un po' azzardata, quello che ha fatto però è... cioè, è difficile, sì. Complessa, perché riprendere Jimi Hendrix... Hanno avuto coraggio, però... Hanno avuto molto coraggio. Sì. Quindi molto bravi. È una cosa positiva, Gianluca, assolutamente. Poi il secondo disco? Allora, porterei Led Zeppelin 4. Ah, abbiamo parlato che non bisogna tagliare questa Wait to Even 2 minuti e 12. L'ho fregato. Lo sai che ti ha preso la scelta. Sì. Perché noi, vecchi rocchettari, perché amiamo fortissimamente Led Zeppelin 4, Gianluca? Perché non solo perché classici. C'è Stairway to Heaven, ma solo per quello. Ma è un disco molto vario. Per cui puoi trovare la ballata folk di Battle of Evermore, certo. La musica West Coast di Going to California, il super blues di When the Levy Breaks, o il classico Black Dog, o vabbè, Rock and Roll, è il pezzo che le cover band lo fanno tutti. Certo, lo fanno il pezzo tutti. Di Led Zeppelin. Poi io amo follemente Jimmy Page, il modo di suonare che ha. Esatto. Non è... La sua varietà anche di suonare. Sì, beh, tecnicamente non era fra i migliori, però aveva questo stile, questo estro che era molto particolare. Certo. Quindi... ama tanti chitarristi Jimmy Page, sì. Che svariano dalla musica flamenco come Andrés Segovia, sì. Fino al rock and roll di Link Wray, che credo è stato il primo chitarrista che gli ha fatto sentire la chitarra ad un certo livello di amplificazione da quel momento. Ma infatti parlando sul tecnico, ad esempio, in questa canzone che è in sottofondo usa molto il finger picking. E infatti si sente l'influenza. Le sue influenze musicali folk sì. Sono di Bert Jansch e John Rambo, praticamente le due chitarre di Pentangle. Lui ha sempre detto: mi sono grandi Pentangle. Dobbiamo sottolineare che è l'unica volta fino a 3 e il Bino esplode. Infatti, al 2. Ma io ho visto John Rambo, è venuto a suonare a 10 km da casa. Bravissimo, mia, quello, bravissimo. E l'unica cantante vocalist che loro hanno ospitato si chiamava Sandy Denny. Quindi insomma. Quando parliamo di Sandy Denny, sicuramente. Chiaramente. Ma tanti, sai, non conoscono Sandy Denny, poi gli devi dire sempre: ma sai che ha suonato nelle Zeppelin? Sì, allora no? Sì. No, perché non avevo notato che c'era anche lei. Pensavo che fosse Robert Plant che fa le due voci. Lui ha sempre detto: Page ha scritto: ha detto che Sandy è la più bella, più brava cantante inglese tutti mai esistita. Che ha fatto da solista. Era vero. Il disco con la Fottering Gay e anche i dischi che ha fatto con i Fairport Convention. Bravissima. Era bravissima. Scusate. Grande band, è una grande convention, mamma mia. Abbiamo citato gli amori folk di tutti. E poi purtroppo è morto in una maniera drammatica. Sì, è morto in maniera drammatica, assolutamente. Si può stare qua fino alle 2:30? No, purtroppo una mezzanotte e 5 abbiamo finito. Sì, dai, andiamo avanti. Dopo un altro, Alex. Sono arrivato a 2, vero? Sì, esatto. Sì. Poi di sicuro porterei il Black Album dei Metallica. Hai scelto i Metallica, il successo universale. Sì, perché comunque c'è sempre quel sottofondo metallaro nella mia anima, quindi. E poi porterei Dirt degli Alice in Chains. Ah, bello, grande disco, classico. Grande. Che di sicuro penso piaccia anche a Marco Binotto. Grande, sì. Io ho portato Musical Man, così li avevo tutti. Esatto. Tanto poi, comunque, se siamo insieme sull'isola, dopo ci scambiamo. Esatto. Ah, sì. Okay. E me ne mancano uno. Penso di portare i Rammstein. Ah, i Rammstein. Un album qualsiasi, Rise o uno qualsiasi. Bene. Tocca a Lisi adesso, vediamo che cosa ha scelto Lisi. Allora, io prima che Alex parta per l'isola vado da lui e gli rubo le Zeppelin 4. Non si potrebbe secondo la regola. Ma io sono sull'isola, quindi cambia il disco delle Zeppelin. No, perché comunque le Zeppelin sono, diciamo, forse la mia band preferita in assoluto. E poi porterei, allora, una band sempre con voce femminile, The Gathering, Mandillion, che è uno forse dei caposaldi, diciamo, del genere metal femminile, gothic, è bellissimo, insomma. Poi porterei qualcosa di più aggressivo, che mi dà energia, come Slave to the Grind, dagli Skid Row. Ah, dà molta energia, assolutamente. Sì, esatto, perché comunque mi piace anche questo lato del rock, insomma. E poi porterei Mother Art, dai Within Temptation. Sono un'altra grande band olandese. Qua si sentono le influenze anche nostre. Esatto, le varie influenze. Ci sono parecchi... Parecchi richiami, possiamo dire, nel senso così. Tanto Marco, abbiamo tutti le sue tapparelle. Sì, può darsi. Sì, vado sul balcone a fumare una sigaretta. Guarda. Che fa bel caldo. Quanti ne ho detti? Quattro. Ne manca ancora uno, sì. Allora, l'ultimo disco facciamo Blackwater Park dagli Opeth. Ah, degli Opeth. Benissimo, sei nell'ambito praticamente, sì, non, mentre Alex è un po' svariato l'ambito, mentre tu sei andato nell'ambito. Sì. Così. Abbiamo finito, Marco, questa scelta dei 5 dischi sull'isola deserta? Sei stato soddisfatto delle scelte nostre? Sì, io ne cambierei già uno dei miei. Ah, però, sì, subito. Ma io anche due adesso ne cambierei. Però oramai l'ho detto, basta, perché sennò non vale sto gioco. Sì, il gioco se non vale assolutamente. Deve essere spontaneo, 100%. Vero, Agostino? Certo, dici? Certo, assolutamente sì. Insomma, è solo per scoprire i vostri gusti musicali. Non, ma non, il problema di un musicista è che è 5 album sono troppo pochi. Lo so. Ci vuole una valigia di album, anche di più. Ci vorrebbero tante ore, ma abbiamo solo... tanti minuti, certo, a disposizione. Però è una storiella, è un giochetto che abbiamo inventato per molti anni, abbiamo fatto in questa emittente, che era un'invenzione del Mucchio Selvaggio di tanti anni prima, famosi cinque dischi da portare, famosi dischi da portare su un'isola deserta. Io che sono un amante del Mucchio, seguo dall'epoca in cui è nato, e mi sono ispirato, mi perdonerò Max Stefani, ex direttore, mi sono ispirato a questa storia del Mucchio Selvaggio, ecco, tutta. Sì, comunque identifica bene o male com'è la, diciamo, il bagaglio culturale di una persona, certo, con certo. I 5 dischi di input che dai, bene o male, cioè, comunque un piccolo curriculum te lo dà della persona che te li dice. Certo, a proposito di curriculum, suoniamo, ragazzi, che cosa suoniamo? Sì. Io prima però vi porto i saluti di Paolo, che vi sta ascoltando dalla zona di Reggio Emilia, Rollo per l'esattezza, ed è ama questo genere di musicale. Ciao, insomma, Paolo. Ecco, ciao. Mi sta ascoltando. Ciao Paolo, grazie. Grazie per il supporto. Cosa ci fate ascoltare allora adesso? Allora, facciamo Wise King, che è un brano che si riferisce all'incontro tra la regina di Saba e re Salomone, quindi fa parte di una leggenda biblica. L'ascoltiamo. Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito. Of universe. rivers in your hands, words really resound. Get to roll the wisdom of times in a two. Where ages last, your temple mystery chest, house of prophecies, kingdom of splendor and twilled, rim of light and bliss. Now I am so far from my land, but I believe in your name. I bless you, King Solomon, your wisdom shines than my precious stones. The queen gave him riddles to great, everything he knew, story told, were true, but brilliant mind, oh, the wise king. God wrought a wisdom of times in two. Pages of universe in your hands, word truly resounds over the land. Your temple mystery chest, house of prophecies, kingdom of splendor and twilled, rim of light and bliss. Now I am so far from my land, but I believe in your name. Facciamo un applauso. Grazie. Dobbiamo ringraziare anche G che sta facendo le fotografie, sicuramente meglio di me, chiaramente con un certo più accortezza. A proposito di cambi di ritmo, vedo Gianluca, ci sono stati parecchi cambi qua, sì. E la voce di Lisi andava su e andava giù nel senso positivo del termine, cambiavi e Alex ti seguiva perfettamente all'acustica. 6 ottavi, 4 quarti. Non è mica semplice, è difficile in acustico stasera, senza altri strumenti, chitarra e voce, è molto complesso. Sì, le abbiamo comunque tutte riarrangiate, diciamo, abbiamo tolto qualche pezzetto qua e là per riproporla in chiave acustica. Certo, certo. Ce li pezzo siamo tutti metal. Ricordati. Siete stati bravi. Una cosa non abbiamo citato, Gianluca, il titolo dell'album. Certamente, Vitriol si chiama. Perché? C'è un motivo. Adesso ve lo spiega Lisi. Allora, Vitriol si riferisce a un acronimo che fa parte della letteratura alchemica. Insomma è un percorso di crescita che gli alchimisti facevano dentro loro stessi per tornare a una sorta di purificazione originaria. E siamo molto affascinati dai discorsi dell'alchimia, e infatti appunto c'è un brano anche si intitola Alchimia, che parla del conte di Cagliostro, che fu un grande alchimista. E Vitriol quindi appunto guarda all'interno di te stesso per trovare la pietra sacra, la pietra filosofale, esatto, per purificare, sì, praticamente vuol dire visita interiore a terra rettificando in venis occulta l'astine. Cioè, praticamente la ricerca dell'alchimista della pietra filosofale non era nient'altro che la ricerca dentro se stessi per trovare l'elevazione divina. E loro non è che cercavano una pietra che trasformasse tutto in oro, cercavano l'oro dell'anima. Quindi dicevano, per affrontare qualsiasi problema, per far trasformare qualsiasi cosa in oro, tra virgolette, devi cercare dentro te stesso. Tutti gli uomini sono piombo e con l'alchimia pian pianino si diventa oro. Eh sì, insomma, una sorta di percorso interiore per ritrovare se stessi e trovare la felicità comunque. E un'altra caratteristica fondamentale è l'azzurro. Adesso mi parli dell'azzurro. Tutti i vostri, cioè l'album è colorato di azzurro, il riferimento all'azzurro è continuo, vero Gianluca? I capelli di Lisi c'hanno l'azzurro. Esattamente. Sì. Io devo cambiare chitarra. Allora, praticamente l'azzurro è un colore che ci accompagna sin dall'inizio. Uno dei nostri primi brani si intitola Azzurrina, Azzurrina, e sì, parla appunto del fantasma del castello di Montebello in provincia di Rimini. E quindi già da lì l'azzurro è un colore che ci ha portato fortuna, che ci ha ispirato. Per quanto riguarda invece Vitrio, l'abbiamo mantenuto proprio perché oltre all'alchimia, l'altra tematica dominante dell'album è l'acqua. L'acqua. Infatti sì, si tratta di testi, quasi tutti legati a leggende di laghi, corsi d'acqua, mare. È quindi proprio il tema dominante l'azzurro. Certo, quindi è quello il tema dominante. E la musica viene trascinata da questo discorso dell'azzurro. Sì, sicuramente. Cioè, parlando di azzurro, quindi di acque, di fiumi, di cielo, la musica deve praticamente descrivere anche questo effetto, questo colore fantastico. Sì, infatti. Colore importante, colore fondamentale. Sì, ci sono parti arpeggiate, parti acustiche, parti più veloci, parti più complesse, sì, parti più dure, molto atmosferiche, le tempeste, eccetera. Esatto, sì, sì. C'è proprio un gioco musicale che ricorda anche il gioco dell'acqua, se vogliamo. Esattamente. Quindi Gianluca, possiamo dire una musica descrittiva al 100% stavolta. Parlavano dell'alchimia, appunto. In questo caso l'alchimia c'è. Esatto, l'alchimia musicale. Questo è il segreto dell'alchimia. Quindi è il segreto anche degli Air Noir, praticamente, del disco loro, del modo di proporsi, dell'originalità del modo di proporsi. Mi piace la loro la capacità con cui ricercano tantissime cose, dai testi alla musica, ed è una cosa che è brutto dirlo, lo possiamo dire. Poche band fanno. Quasi nessuna fa la ricerca. Abbiamo già avuto anche ospiti. Sì, sì, ne abbiamo avute. Che loro conoscono anche molto bene. Ne abbiamo avute, però la ricerca è difficile, non si fa poco. Sì, la no, ricerca. Perché noi parlavamo con un amico così che mi diceva: "Bah, sai, tante band oggi fanno sinfonico." Sì, però gli ho detto: poi bisogna anche essere bravi a mettere tutto insieme e a creare un disco che abbia anche un significato, ma soprattutto sia pregno di tante cose che messe insieme creino qualcosa con cui una band ha qualcosa da dire. Sì, ma sono cose disordinate. No, no, cioè, quello. C'è veramente una ricerca, certo. Appunto Lisi parlava della letteratura, delle grandi leggende. Abbiamo curato molto i particolari. Ma fino ai dettagli, cioè veramente una cosa fantastica. È questo che dovrebbe fare una band. Anche una cosa in più che vi posso dire, che il colore azzurro, no, del vitriol, sarebbe il vitriolo, il solfato di rame, e il colore del solfato di rame è azzurro. È vero. C'è un'altra cosa, è un altro elemento che si usava molto in alchimia, solfato di rame, lo zolfo era usatissimo, infatti dal libro De Sulfur, che era comunque l'enciclopedia del buon alchimista anni passati medievali. Ed era anche comunque, insomma, un insieme di cose. C'è un filo logico. Ed era anche un elemento che si riteneva fosse contenuto in molti animali fantastici, unicorno, altri animali del genere. Quindi... Ed è anche il colore della camicia di Marco. Sì, giusto. Ma, è vero, è vero. E dell'albero anche. Della diciamo che è nato tutto dalla mia camicia. Ecco. Ragazzi, se aveva la camicia gialla era un casino. Vi porto i saluti anche da parte di una cantante che sta preparando il suo nuovo disco. Si chiama Rosita Rota, ci sta ascoltando dalla provincia di Bergamo. Ciao Rosita. Ciao Rosita e ciao anche a Bergamo, dove ho un sacco di amici, insomma. Ecco, ciao, magari Bergamo, vi conoscerete Bergamo. Magari quando farete qualche concerto lì, insomma. E poi una cosa io sono curioso, quando fate i concerti vi vestite in una maniera particolare tendente a questa vostra musica oppure no? cioè create un po' come come dire, come i Blackmore Knight, per intenderci, che fanno questo. Ma questi principalmente noi quattro della band ci vestiamo di nero sempre, comunque con come un il disco, come il disco, insomma. Sì, sì, come sì, nella copertina. Quindi. Io mi vesto sì, stile un po', diciamo, anche ninfa, magari del lago, no? Mm-hmm. Cose così. Sempre comunque con i colori azzurro e nero. Bene. Riproponiamo anche live. E invece questa foto dove l'avete fatta? Quella dove c'è questo... Questa foto l'abbiamo fatta in una cascina bellissima che c'è a Picenengo, in provincia di Cremona, e c'è questa torre molto particolare che ricorda un minareto. E ci è piaciuta molto, ogni volta che ci passiamo ci fermiamo a guardarla. La e cosa divertente detto, perché no? È il retroscena, c'erano meno uno e noi eravamo sì, praticamente in maglietta. Esatto, l'abbiamo fatto proprio d'inverno, era tre ore e mezzo in inizio maglietta, febbraio. Qui, qui no però no, lì, lì no, però lei soprattutto era quasi sempre in maglietta o... No, che maglietta? Avevo l'abito. L'abito col avevi velo. Un mantello celeste qui. Sì, sì, e c'era tutta la nebbia che anche che saliva. È stato anche, vabbè, sembrava fatto apposta. Divertente fino a un certo punto. È stato fatto apposta, no? No, ma anche sì, la nebbia sì, sembrava sì, fatto apposta. Tu che ne dici, Marco? Io dico che ho patito un bel freddo quel giorno lì. Dopo siamo andati a bere una bottiglia di rosso. Dopo. Ah, passato, il freddo è passato subito, allora. No, no, perché veramente abbiamo patito un freddo. Poi dopo, come al solito, le donne si fanno aspettare. Dovevo essere due, sono arrivate sento le quattro. Sento una nota polemica. Le quattro. No, no, però mi ricordo la giornata fredda, il posto è bellissimo, proprio è un, no, è un minareto vero e proprio che ha fatto questo tizio molto ricco in ritorno dal suo viaggio in Oriente. Ringraziamo anche Camilla che ci ha fatto le foto. Camilla Sarzi, sì. A proposito, sì, c'è qualche altro ha partecipato oltre a voi al disco, oltre sì, a Camilla, fotografa? Sì, abbiamo nel disco, prima di tutto, un ospite d'eccezione, una soprano tedesca che ha cantato per quasi 10 anni con gli Haggard, un gruppo famosissimo, Gabi Koss si chiama, e ha duettato con me in un brano, Misleading Paradise, e ha fatto anche, ha curato alcuni cori. Poi per quanto riguarda le tastiere, dato che noi comunque in formazione non abbiamo più un tastierista, abbiamo deciso di collaborare con tre tastieristi, dei quali allora uno è saltato il collegamento, ah, okay. Lo richiamiamo. Uno è Davide Bislenghi, è un artista di Cremona, un tastierista di Cremona. C'è poi Simone Giorgini, un tastierista di Reggio Emilia che suona con i Dark End e gli Hollow Ace. E poi Marco Garau dei Derdian, che cioè, è una Luca band. Ha fatto di sì perché quando hai citato la band Hollow Haze, conosciamo bene. Okay. E poi niente, dicevo, Marco Garau dei Derdian, che è una band power metal di Milano. Tu avevi sono tutti cari amici questi. Scusami, tu avevi partecipato a un'altra band precedentemente? Sì, avevo partecipato proprio con i Derdian al loro ultimo album, The Apocalypse. E sì, poi vabbè, ho fatto anche altre partecipazioni, ho partecipato all'ultimo dei Secret Sphere e recentemente proprio sono andata a registrare con gli Ulvedark, che sono una nuova band di Bergamo che fanno death folk metal. E te, Alex, hai qualche altra partecipazione prima della stesura di questo disco? No, no, io assolutamente no. Io ho sempre lavorato per gli Venuare. Ah, ok, ok, bene. L'esclusiva. L'esclusiva, bene, una cosa positiva questa. Anche perché li abbiamo creati praticamente io e Marco Binotto. Ah. Una sera davanti a una birra. Ah. La birra porta una certa... La birra è importante, pericolosa. La birra, è pericolosa. No, non è pericolosa in questo caso, avete creato la band. Sì, sì, poi dopo abbiamo chiamato Elisa, Lisi e il batterista, Daniele. E poi Toshiro è arrivato da poco. Ah, ok. È una new entry praticamente. Abbiamo deciso di aggiungere un chitarrista per dare più potenza al live. Ho capito. Quindi, poi vabbè, comunque è un gran chitarrista, quindi siamo tutti contenti. Quindi il discorso di proseguire senza tastiere, forse un prossimo futuro ci saranno le tastiere oppure volete decidere di andare avanti così? Ma no, perché no, se troviamo la persona giusta, certo, perché no, però non è una cosa che ricerchiamo assolutamente. Ah no, ecco, andate avanti così intanto. Ci piace anche collaborare con certo, persone esterne o comunque anche noi curiamo parti delle tastiere. Cosa dici Gianluca? C'è una bella zona positiva tra Cremona, Bergamo, Brescia, il discorso di questo genere. Cosa dici? Beh, ce ne sono ben di varie province comunque che hanno... Ricordiamo i Teodage che sono veneziani. Sì, ma parlo di quella zona là più che altro. Beh, insomma, penso che ogni zona del nord Italia abbia le sue particolarità dal punto di vista musicale, però insomma fa piacere sentire che in una zona di Cremona ci sia comunque una band così, insomma. Dicevo, recentemente sono venuti più di uno, vero Agostino, di Brescia. Brescia parlavamo di una Brescia zona, è una zona molta, molto, molto... Sì. Che fa villa, diciamo che è la Seattle, è la Seattle, sì, italiana. Per varie, una volta chiamavano la Veneta d'Italia, adesso possiamo la non essere veramente ci sono varie città che sono che spacciano, si spacciano di essere Seattle. Non dico Seattle, ma insomma forniscono molti artisti. Beh, no, ci sono tantissime bravi, anche Genova, bravi band in Italia, anche Bergamo nel metal estremo, certo. Ad esempio Folkestone, un sacco di band stanno nascendo di rilievo. Ci sono molte band molto brave che meritano di essere valorizzate e meritano di avere successo. Certo. Ci fate qualcosa dal vivo o facciamo un po' di break con il disco? Come volete voi. Scegliete voi. Facciamo, ma possiamo anche fare un pezzo... Cosa dici Alex? Preferisci come disco? Vuoi. Come volete. Ma come io vuoi. Farei un pezzo dal vivo. Bene. Ci fa sempre molto piacere sentirvi dal vivo. Farei Mistral of Dolomites. Che è il nostro pezzo lancio. Noi abbiamo deciso, io e Alberto Prisco, che ho visto che appena è arrivato. Il nostro direttore artistico, abbiamo deciso di lanciare questo pezzo perché meritava assolutamente, quindi. E ecco, questo brano è riferito alla leggenda della nascita di un lago sulle Dolomiti a 2200 metri che si chiama Lago di Antermoia, e mi è piaciuta molto questa storia, ho voluto metterla nel pezzo più folk che abbiamo nell'album. Esattamente il pezzo più folk. She spreads them in a to the whole day. Oswald gained the music, but he lost to his love. From the valleys to the mountains, Oswald sings religious and tests. Everybody calls him Mr. Dolomite. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. From the valleys to the mountains, Oswald sings legends and tales. Everybody calls him Mr. Io propongo un altro applauso. Sì, sì, bravi, molto bravi. Un finale alla, alla Farfall Convention, agli Stylized Span, al musical folk inglese. Stai applaudendo anche tu, Marco? Sì, sì, sono tornato applaudendo. Sei seduto in poltrona però adesso, mi pare. Come fai a saperlo? Ecco, sì, immagina. Radio Fratello. È un pezzo molto bello, molto folk, come giustamente ha detto Lisi. Un finale decisamente ancorato al folk inglese, cosa dici? Assolutamente, diciamo, infatti assolutamente. Io e te ci siamo messi a ballare. Sì, perché il folk inglese è bello, è meraviglioso, e Lisi l'ha interpretato alla sua maniera, alla maniera di Evan Ware, chiaramente. Apro una piccola parentesi, perché non ha molta autonomia, dice, perché c'ha è l'influenza. Vuole sapere le date dei prossimi vostri concerti, un ascoltatore. Allora, saremo il 15 dicembre, sabato 15 dicembre, al Fillmore di Corte Maggiore in provincia di Piacenza con gli Haggard. Lui abita lì vicino. Quindi... Ah, bene, una data secondo me imperdibile, ecco. Poi a gennaio saremo il 18 gennaio al Padiglione 14 a Collegno, in provincia di Torino. E il... il 18, scusa. 18 al Midian, 19 al Padiglione. Sì. Allora, il 18 gennaio, che è un venerdì, al Midian di Cremona, e il 19 gennaio al Padiglione 14 di Collegno, in provincia di Torino. Poi vabbè, ci sono quelli di febbraio, il 2 febbraio saremo al Keller di Curno, Bergamo, e il 22 saremo al Belloz, sempre in provincia di Cremona. Quindi ne avete di dati prossimamente? Sì, sì, abbastanza, sì, sì. Sì, stiamo anche lavorando per fare il nuovo CD, quindi stiamo cercando di non tenercene troppe di date, perché dovete fare le cose certo, un po' complicato. Certo. Bene, benissimo. Allora ripetiamo quella di Piacenza. Piacenza 15 dicembre, sabato 15 dicembre, quindi fra pochissimo. Al Fillmore di Corte Maggiore. E con gli Haggard. Ecco, quindi adesso se li è segnati, così vi verrà a vedere, magari così lo conoscerete anche di persona, insomma. Ok. Bene, sono le 23:29, già passata un'ora e mezza, Maurizio, hai visto? Eh sì, il tempo corre, ma corre bene quando si ascolta musica, e bella quando musica. Si sta in bella compagnia. Poi siamo in ottima compagnia stasera. Grazie. Blu Radio Veneto, ovviamente, Agostino, Maurizio, c'è Gianluca Merlin che ci è venuto a trovare. Il suo ospite, la guest star stasera. Ma soprattutto ci sono gli Evan Ware, insomma, e poi abbiamo Marco, un componente della band, del telefono, quindi abbiamo fatto abbastanza completa la cosa. Intanto ne approfittiamo per ricordare ancora i saluti degli altri due componenti della band, che ricordiamo sono Daniele Foroni alla batteria e Toshiro Brunelli all'altra chitarra. Benissimo. In un'intervista hai detto: ci abbiamo messo 2 anni a fare questo disco perché abbiamo dovuto farlo con molta calma, curando tutto. Poi ci sono stati molti problemi tastieristiche. Sì, c'è stata una formazione un po' rivoluzionata. Sì, se fosse successo ora, probabilmente il tempo era molto più... Più veloce. Sì, sì, sì. Però 2 anni sono dovuti però per curare un po' tutto. Sì. E poi un'altra cosa tu hai detto, contattato Lisi, Evan Ware, perché Evan è un pezzo, è un nome inglese, Noir è un nome francese, questo dark, questo nero esiste, si trova nella nostra musica. Sicuramente sì, ci sono atmosfere anche oscure, ma non è l'unico colore. No, cioè, è uno dei tanti colori. Sì, il nero e l'azzurro, ecco, abbiamo detto precedentemente. Sì, ma anche colori molto più gioiosi, come ad esempio nel brano Mistral of Dolomites, certo. Ci sono pezzi anche... comunque pieni di colore. Sì, molto felici, molto, sì. Quasi una danza al finale, come giustamente aveva sentenziato Gianluca. Questo folk, il folk fatto in maniera un po' particolare, ma assolutamente acustico stasera, voce, chitarra e flauto, quindi proprio una cosa minima, ma minimale nel senso positivo, vero Gianluca? Si risente comunque anche nella versione originale comunque. Sì, sì, esattamente. Però è un po' più arrangiata, possiamo dire. La versione più metal. Più nera, chiaramente sì, qua Dobbiamo ripetere che i ragazzi hanno proprio eseguito ex novo i pezzi volutamente per questa trasmissione, quindi è una cosa molto positiva, ci onorate per questo. Marco, ci sei sempre, sì. Marco, ci sei sempre. Il colore, sì. Infatti, noi mettiamo comunque, cioè, il colore nero, diciamo che è forse quello presente in maniera minore, perché nel senso vogliamo essere molto più variopinti rispetto magari a un cliché gothic che ci è dato, perché abbiamo la cantante e facciamo del metal. Cerchiamo di mettere molte più sfumature, infatti Yves Noir potrebbe anche voler dire anche nero, cioè c'è anche il nero oltre a tutti gli altri colori che mettiamo nella nostra musica, almeno che proviamo a mettere nella nostra musica. Che poi alcuni non lo considerano neanche metal. Sì, neanche, vabbè, neppure Gianluca non lo considera metal al 100%, vero? No. È chiaro. Giusto, perché piace, meglio, perché piace anche a gente che non ama il metal. Esatto, come è sottoscritto, che non ama il metal. E già che c'è nato, Marco, com'è nato questo nome, Yves Noir, appunto? Allora, ci piaceva moltissimo innanzitutto la sonorità del nome, come suonava Yves Noir, sembrava già evocativo il nome, e quindi abbiamo, diciamo che è nato prima il suono e poi dopo abbiamo cercato di dargli una ragione e abbiamo trovato un compromesso con queste due parole unito all'inglese e francese che riuscivano bene o male a sintetizzare quello che volevamo esprimere, qualcosa di comunque molto variegato con un diciamo con un impronta a prima vista gothic, ma solo a prima vista. Bene, è uno scherzo, puoi andare avanti a parlare ancora. Okay. Voglio vedere cosa dici tra un po'. Bene. Allora, Maurizio, che dici? Sentiamo un pezzo da disco, cosa esatto. Dici? Così li facciamo riposare un secondo, anche se loro non sono molto stanchi, assolutamente no, però a meno che non vogliono suonare ancora dal vivo e cantare dal vivo. Cosa fate? Scegliete sempre abbiamo ancora voi. Due o tre pezzi dal vivo. Allora fateli dal vivo. Allora. Facciamo un altro pezzo dal vivo. Dai, va bene. E poi facciamo una pausa con qualcosa. Un pezzo da studio. Studio sì. E poi torniamo. Poi abbiamo ancora un pezzo da studio, mi pare la traccia numero due, sì. No, la numero tre. Ah, numero tre, quindi abbiamo ancora due da studio praticamente. Da fare. Sì, sì, sì. All'incirca. Sì, sì. E allora vi suoniamo Misleading Paradise. Benissimo. Si riferisce al giardino di Armida, della Gerusalemme liberata, dove la maga imprigionò il cavaliere cristiano. Va bene. Thank you. in a loud oblivion you will lose your mind. Come to me, to my realm, I'm the queen of fortune. Bravissimo, un pezzo molto difficile questo, decisamente molto difficile, anche come impatto vocale, e soprattutto, secondo me, Alex l'ha suonata come fosse un basso la chitarra, e suonandola come fosse un basso, molto percussiva, dà un certo senso alle cose, secondo me, è molto complesso, tu sei, hai delle sonorità, no, io mi ricordavo, non so se Gianluca sei d'accordo, in questo momento da Amanda Galas, in alcuni momenti, poi andava oltre. L'atmosfera inquietante. L'atmosfera inquietante. Poi da Amanda Galas, che era la musicista che tu conosci. Sì, conosco, molto teatrale. L'ha interpretata molto teatralmente, secondo me, questo pezzo, e questa mi dava questa sensazione. E lui suonando la chitarra come fosse un basso, Marco, mi stai sentendo? Sì, sì, ecco. Lui lo suonava, il mio pezzo preferito, questo lo suonava come fosse un basso. Mi pare, in una tua intervista, Lisi, tu hai detto che questo è uno dei tuoi pezzi preferiti, o sbaglio? Sì, sì, è vero, perché? Secondo me racchiude un po' l'essenza degli Evenoir. Poi mi piacciono molto comunque le atmosfere un po' orientaleggianti che sono comprese in questo brano. E Amanda spesso e volentieri usa atmosfere orientaleggianti. Sì, a parte il famoso disco con John Paul Jones. Quello lasciamo perdere. Però di non solito sono orientaleggianti, ma che melodrammatiche, sì, e abbastanza luguri. Però, quindi ricordandomi di Amanda Galas, mi è venuto in mente questo. Non so se per sì, te qualcosa, c'è qualcosa. Sicuramente, sì. Grazie comunque del paragone. È stato un flash. Io voglio sapere com'è andato il vostro concerto in Austria. bello. No, sì, avete bevuto tanta birra, anche lì. Sì. Sì. No, è stato bello, ci siamo divertiti parecchio. A parte il fatto che non facevamo fatica comunque a trovare il posto. Cioè, abbiamo messo tipo 2 ore e mezzo, 3 per arrivare proprio al posto giusto. Sì, ci siamo persi un po', nelle tangenziali di Innsbruck. Sì. Però è stata un'esperienza molto, molto bella. Il pubblico molto partecipe, molto caldo. E abbiamo suonato poi con gli Obsidia, che verranno qua da noi per le 2 date di gennaio a Torino e a Cremona, il 18 e il 19, e c'era poi anche una band tedesca, quindi è stato anche un bello scambio culturale e musicale. Ho trovato nuovi amici. Volevo proprio parlare con questo, anche con Gianluca. Come è lo scambio culturale proprio in Austria, visto che siete stati in Austria, musicalmente parlando? Si trovati bene, avete sì, immediatamente. Guarda, secondo me poi anche l'Austria proprio è un po' fiabesca, no? Mi ricorda anche le atmosfere un po' dei nostri pezzi, queste leggende, queste città che sembrano città delle fiabe, dei folletti. Mi piace molto questo aspetto del Tirolo. La ecco. birra. Tu già dici, Gianluca? Vabbè, assolutamente, abbiamo parlato della birra, ma la birra, al di là della birra, musicalmente. Su questo sono sempre curioso, perché si fa sempre il paragone Italia-estero per quel che riguarda la ricettività della musica soprattutto che propongono le band che suonano e poi soprattutto che cantano in inglese all'estero, a differenza di quella dell'Italia. Quella è una poi, cosa. Purtroppo l'Italia non è culturalmente e musicalmente molto avanti. È il classico tasto che si preme ormai, come sparare sulla Croce Rossa ormai. Tasto dolente. Ahimè. Esatto. Purtroppo l'ambiente musicale italiano è in mano a pochissime persone. e sono i soliti che vendono dischi, che fanno dischi. Se vendono ancora i dischi. Sì, che si scaricano i dischi da internet, ecco, illegalmente. Appunto, ormai no, dischi non si vendono più. Però sono sempre le solite persone che fanno musica in Italia. Non li nominiamo, no, però sono sempre quelli. C'è tanto underground, però il problema sì, è che poi c'è una porta emerge. Chiusa. Esatto. E tanti sì. saluti. Anche perché comunque la gente è assuefatta da questo sistema e manca proprio la voglia di andare a scoprire conoscere. Altre una realtà. Una cosa molto importante, come al solito cito sempre il grande Claudio Trotta, non esiste un qualcosa che porta, o almeno per la maggioranza delle persone, stiamo parlando di una percentuale grossa, porta la musica sin da quando nasci, cresci, fino a tutta un'esistenza della tua vita. Sembra quasi che la musica, arrivati ai 30-40 anni, è roba per bambini, ciao, e per il momento... Secondo me anche. Poi sono cose che hai dentro, anche. Sono cose che ti vengono sì, spostate. Io però, vedi, a 6 anni, 7 anni ascoltavo gli Iron Maiden. E ascoltavo i Pink Floyd. E non ti so spiegare il motivo. non so il ma probabilmente perché a casa tua risuonava la musica. Ma conta tanto anche la famiglia che ti cresce sì. Se hai una famiglia dove la musica cresce, gira senza tanti problemi, cresci con l'idea che la musica è una cosa positiva. Se cresci in una famiglia dove ascoltano Tiziano Ferro, esatto. Cresci problematico, purtroppo. Forse ero qua lo stesso. Gianluca ha citato i 30-40 anni. Allora io e Agostino siamo i sopravvissuti. Allora, Agostino, io un po' più di te. Beh, non netto sei tu, esattamente. Siamo sopravvissuti. Anche Alberto, che si sta nascondendo da qualche parte. Anche lui, sì, non è che siamo tanto distanti l'uno dall'altro. Comunque, insomma. Dovrebbero fare qualcosa per i bambini. Nel senso che dovrebbero fare qualcosa a livello musicale per insegnare ai bambini a poter scegliere che cosa ascoltare. Affinché perché... propongono di far suonare o il flauto o la melodica, le medie, ragazzi, un bel casino. È un disastro. Poi dopo disastro, nascono questo... donne che cantano solo il flauto, poi dopo mi pare un casino. In questo caso è positivo, in altri casi il flauto finisce nel dimenticatoio. No, esatto, sì. Non sarebbero nati gli Evan Harbero, allora. Sì, no, è vero. Io ho notato tanto anche una poca voglia di scoprire qualcosa di nuovo, nel senso, diciamo che secondo me un po' il pubblico ha perso quella voglia di cercare, di ascoltare, ma si è rimasto un po' assuefatto da quello che gli viene proposto in maniera passiva. E questo non so se è il problema, è dato da internet che ti propone troppa roba gratuitamente e quindi non hai più la possibilità di avere roba selezionata da qualcuno che si impegnava a selezionartela una volta, quando non avevi la disponibilità gratuita della musica, la dovevi comprare, prima di comprare qualcosa ti informavi, cercavi. E poi anche il fatto di comprare un disco aveva un sapore diverso, portavi a casa il disco, scartare il disco, libretto. Tirarlo fuori dal vinile, il vinile o dal CD o dal vinile. Sì, io sono rimasto anche il vinile comunque. O le cassette, cioè, ma qualsiasi supporto che era comunque però a pagamento aveva un valore diverso. Ma proprio anche un valore di sentimento diverso nei confronti, perché adesso scarichi un MP3 tutta la discografia di un gruppo chi che sia e tu ce l'hai sul CD, ma è una cosa molto fredda, molto ascolti due canzoni, poco dici, musicale, cioè poco, non dai valore a quello che è l'artista o anche tu perdi di valore nel momento stesso in cui ascolti qualcosa che non sai quasi neanche che cos'è. Io mi ricordo quando ero più piccolo che mi informavo, andavo al negozio di dischi, facevo ordinare il disco dagli Stati Uniti, che qua non c'era ancora, una soddisfazione. Adesso invece è tutto così, più forse semplice, freddo, poco entusiasmante, non lo so, potrebbe essere una spiegazione. Anche il pubblico che va a vedere i live è più interessato alla cover band dei Deep Purple, perché è più semplice, è meno impegnativo che andare a vedere un gruppo che fa musica propria, cioè, è tutto un altro tipo di serata quella che vai ad affrontare. Hai toccato un tasto dolente, le cover band. Vabbè, poi dopo, cioè, ognuno fa quello che ne ha voglia, però... Certo. Ognuno anche va a vedere il concerto che si merita. Giusto. Belle parole, Marco. Wow, complimenti. Sono pienamente d'accordo. Noi di solito sposiamo la seconda, la ipotesi di fare sempre le cose originali nel nostro piccolo. Infatti. E per tanti anni, oppure cover band molto mirate e sempre di un certo livello. E ne siamo fieri comunque. E ne siamo assolutamente Vi faccio i complimenti, perché comunque se ne fossero di persone come voi che danno spazio a gente come noi e che comunque cerca di fare qualcosa di un filo originale, un po' diverso dal coro che c'è, monotono, della musica che ci circonda. Certo. Certo, sentiamo un pezzo da disco, cosa dite, sì, ragazzi? Sì, poi torniamo in studio e ci poi salutiamo, abbiamo finito. Va bene. Marco, tu resta sempre lì, mi raccomando. Ok, va bene. Allora, avete scelto la traccia numero 3? Numero 3 abbiamo scelto. E allora, se possiamo, perché l'abbiamo appena fatta, quella che abbiamo appena suonato. Allora, possiamo... Vuoi saltare la 2 allora? Saltiamo la 2 allora. Sì, dai, facciamo questa che è il singolo. Benissimo. La traccia sì. numero 2? Sì, sì, sì. Che si intitola? Days of the Black, poi l'abbiamo fatta prima acustica, non sentiamola adesso. Adesso sentiamo da disco. Sì. Perfetto. Okay. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23:52, quasi 53, siamo quasi arrivati alla fine, insomma, il tempo passa, il tempo vola, come dicevo prima Maurizio, quando si sta bene in compagnia e si ascolta della buona musica, il tempo inesorabilmente passa velocissimo. Sei concorda con me, Marco? Sì, sì, sono qua. E grazie per la buona musica. Allora, ricapitolando un po' quello che è, insomma, i prossimi impegni futuri, il vostro sito e via, e dove si può trovare il disco e quant'altro, insomma. Sì, allora, sito www.evenoir.it, poi c'è la pagina su Facebook, il disco si trova nei negozi di musica specializzata, diciamo, su iTunes. Poi su iTunes e su tantissimi siti online, Amazon, ai nostri concerti. Ai nostri concerti anche, sì, certo. Quali saranno i prossimi concerti vostri? Allora, 15 dicembre Fillmore Corte Maggiore in provincia di Piacenza con gli Haggard, 18 gennaio al Midian di Cremona, 19 gennaio al Padiglione 14 di Collegno, provincia di Torino, 2 febbraio Keller di Curno, provincia di Bergamo, e 22 febbraio Belloz, in provincia di Cremona sempre. Ricordiamo il titolo del disco e la casa discografica. Allora, il disco è Vitriol, il nostro debutto album, è uscito per Scarlet Records in Europa, America e anche in Giappone. Benissimo. Bene, prossimo disco quando sarà? Ci stiamo già lavorando. Speriamo entro fine 2013, speriamo. Sapete dove dovete presentarlo poi, vero? Qui. Certo. Sì, ormai l'ho fatta la promessa e ogni promessa devi venire anche te, Marco, però stavolta. No, no, stavolta vengo anch'io per forza, allora, no, non mancherò assolutamente. Ci mancherebbe. Noi portiamo la birra, va bene? anche la grappa è buona. Anche la grappa. Vabbè, facciamo di birra, dai. Maurizio, volevi dire due cose su questo pezzo che abbiamo poc'anzi ascoltato? Sì, è un pezzo molto interessante, molto bello, ma tutte le atmosfere di questo disco sono interessanti. Io posso dire una cosa, io e Alberto siamo qua davanti stasera, siamo un po' lontani da certe atmosfere, ma sentito questo disco che ci ha proposto Gianluca, abbiamo cambiato totalmente idea. È una cosa molto positiva. Perché siamo un po' lontani dalle atmosfere, così non dobbiamo identificare un genere, qua non è giusto identificarlo, ma siamo leggermente lontani. Ma questa aggiunta di foil, questa aggiunta di flauto, questa voce un po' particolare di Lisi, ci ha fatto cambiare idea. Grazie. Assolutamente. Grazie, che un bellissimo complimento questo, nel senso, perché abbiamo raggiunto anche diciamo altri punti di vista che probabilmente sono, cioè, come hai detto te, sono un po' distanti, esatto, da quello avete, che è il cliché, avete, normale. Esatto, avete coniugato, avete preso parte di ascoltatori che non erano proprio legati al vostro genere, e questa è una cosa positiva, vuol dire che la musica non ha confini. Sì, infatti non ha paletti, non ha paletti, limiti, esatto, di sorta, perché alla fine l'arte è un'espressione. È l'arte, e questo è importante. Bene, io ringrazio Gianluca che ci è venuto a fare compagnia. Ci ha dato una mano grandissima, Gianluca. Grazie. Ciao Gianluca, in bocca al lupo per la tua carriera. Grazie. Radiofonica, anzi web radiofonica. Sì, su awesomeradio.net. E quindi se potete ascoltare, lui fa soprattutto musica rock e quindi interviste in inglese. In inglese, quindi se voi fate un po' di con pubblicità. Buoni riscontri, mm-hmm. Perché il pubblico straniero è veramente interessatissimo alle nuove proposte e soprattutto italiane, anzi la risposta del boss di awesomeradio.net, che questa signora canadese oramai trapiantata in Australia, è stata: ma che acqua avete in Italia? Cioè, cosa c'è nell'acqua italiana per avere questi grandi gruppi, questi grandi talenti che avete voi, insomma, perché veramente siete fantastici. E gli ho detto, cara Shoshona, è la qualità soprattutto quella che punto, e ne abbiamo, insomma, ecco. Ne abbiamo tanto. Sì, grazie signora. Allora, un grazie agli Evenoir, prima di tutto a Marco che sei stato con noi al telefono. Sono stato volentierissimo con quel telefono, è stata veramente una bellissima esperienza telefonica, e la prossima volta prometto verremo lì. Ti apro una parentesi, Marco, in futuro, l'anno prossimo, e Evenoir ovviamente intervistati in inglese su awesomeradio.net. Va bene, ci prepariamo allora. Studiamo. Polveriamo il nostro inglese. E quindi ciao Marco e grazie ancora. Grazie mille, ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao, Marco. E voi invece un grazie particolare, visto che siete venuti fin qui da dove? Da Cremona? Cremona, sì. Un bel viaggetto, insomma, poi adesso ritornate a casa. Ne valsa la pena, valsa, però. Vi siete, sì, divertiti? È una bella serata, sì. Una bella opportunità per proporci anche in chiave acustica, presentare tutto il nostro progetto, il nostro lavoro. E quindi grazie a tutti voi di Blu Radio. Grazie davvero. Grazie a voi. Maurizio, noi ci rivediamo domani sera. Sì, domani sera con una cantautrice. Sara Velardo. Esatto, Sara Velardo, musica un po' particolare, molto jazzata, molto chitarristica, interessante, come sempre tutti i nostri progetti sono interessanti, indubbiamente. Senza ombra di dubbio, dalle ore 21, e poi ancora vi ricordo il grandissimo appuntamento di sabato prossimo, alle ore 21, io e Maurizio avremo questo grande onore di fare, trasmettere in diretta il concerto del Summertime che sarà qui al Palafabris. Saranno 3 ore di musica in diretta dal vivo, la nostra prima esperienza per quanto riguarda i concerti dal vivo, fare una diretta. Siamo già emozionati, almeno per quanto mi riguarda, io la vedo così, Maurizio, tu non so. Ah sì, sarà la stessa cosa. Sarà la stessa cosa. Allora, grazie ancora agli Even Noir, ci salutate con che canzone? Allora, un pezzo preso dal nostro primo EP, I Will Stay, si intitola appunto anche la canzone I Will Stay, è stata scritta dopo un viaggio in Croazia sull'isola di Kirk. Grazie Alex, grazie Alisi. Grazie a tutti voi. E ci in bocca al lupo per il vostro disco prossimo. Grazie. Ciao. Prego. grazie.